24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Eccoci, siamo qua a 6:35 minuti, nonostante la nevicata abbondante fitta a Milano. Io ce l'ho fatta arrivare, ce l'abbiamo fatta, Miriam Luchetti ce l'ha fatta, è qui in redazione Filippo Oreggi in regia ce l'ha fatta, è qui in redazione anche lui. Allora a tutti, visto che nevica, prendetevela con comoda oggi più che mai, il consiglione di Eternamonti. But please relax. Eternamonti, perché l'avete capito, Eternamonti sarà sempre più monti, sempre più monti. Apriamo il nostro bar, anche oggi con la neve possiamo aprire, e la nostra bella Nicole è pronta a offrire il caffè volentieri a tutti quanti. Offre Nicole Minetti, come sempre, a Matteo Salvini, che saluto, della Lega. Buongiorno Salvini, eccoci. Buongiorno. Come va? Nevica anche da quelle parti di Milano? Sì, io ho la voce un po' bassa, vabbè. Perché sono all'ospedale Buzzi e quindi non voglio disturbare. Attenzione, no, perché questo è Matteo Salvini sta per diventare nuovamente papà. Sì, ecco, solo voi potevate farmi collegare le 6:30 da reparto ostetricia, però sono uscito. Sarebbe stupendo un parto in diretta. Matteo Salvini, nel caso dovesse succedere il parto imminente, può lasciarci, eh? Sì, magari con un preavviso dal reparto di ostetricia del Buzzi di Milano, ospedale Buzzi di Milano. Andiamo invece da Alberto Forchielli, che saluto. Buongiorno Forchielli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Presidente dell'Osservatorio Asia, che si trova in Germania. Ah, la Germania. Però vado in America. Ah, la Germania. Salvini sta in Germania, Forchielli, la Germania. Sta nella Repubblica Federale Tedesca. Sì, la Germania. Cosa dice la Merkel? Dice Forchielli che non intende fare ingerenze in Italia. Ma che non intende fare ingerenze? Fanno di tutto. L'han chiamato alla riunione del Partito Popolare Europeo. Monti non c'entra nulla col partito, non è iscritto al Partito Popolare Europeo. L'han chiamato lì e oggi tutti i titoli dei giornali è l'Europa sceglie Monti. L'Europa. Ma chi è, Forchielli? È così? Sì. Io credo che i tedeschi stavolta userebbero le stesse armi di Berlusconi, ossia lo coprono di querele. Addirittura, in che senso? Sì, tutte le affermazioni che fa false, gli fanno una diffida e poi dopo lo querelano come fa lui con gli altri. Lo querelano? Ma che vuol dire lo querelano? Questa è l'ipotesi che mi sono fatto, a parte che i gruppi del PPE lo hanno massacrato, capito? Gli stessi rappresentanti italiani al Parlamento europeo, 23-3, ma io credo che la tattica dei tedeschi non sia tanto la stampa, ma gli fanno, capito, delle querele tutte le volte che lui dice le sue stronzate, milioni di danni, perché, capito? Perché ha diffamato il popolo tedesco, o ha diffamato la Merkel. Ma io cosa credo vuoi? Che userebbero un'arma legale, come fanno a Singapore. Sì, insomma, addirittura l'arma legale. Sì. Qua Matteo Salvini, la questione è questa: cioè, ha deciso o sta decidendo l'Europa? Cioè, io non lo so, e poi magari decide in maniera giusta. Ma allora io l'ho detto già come provocazione, lo rilancio anche in questi giorni. Ma perché andiamo a votare, Salvini? Perché andiamo a votare? Diamo tutto in mano a Mario Monti, Eternamonti, diamo tutto in mano a Mario Draghi, che è pure italiano, quindi ci governa, ci gestiscono dalla BCE, e va bene così, Salvini? Noi proviamo a resistere, perché dire sono l'ultimo a voler difendere Berlusconi, evidentemente, perché penso, e lo ripeto, che sia il passato che non aiuti ad andare avanti, non aiuti a parlare di programmi concreti, di agricoltura, di commercio, di benzinai. Però che sia un certo tipo di Europa che si fa i suoi interessi, qua c'è poco da querelare. Io fino a ieri ero a Strasburgo, Due provvedimenti su tre sono fatti su misura per Germania, Francia, appunto. Siamo una colonia ormai. Una colonia non lo so, però tutti i provvedimenti economici che passano dalla mia commissione, dai pannelli fotovoltaici ai maestri di sci, all'agroalimentare, all'industria meccanica, sono tutti fatti su misura per Francia e Germania. Noi non ci guadagniamo un euro, non è democrazia, ma vi pare normale che il presidente del Parlamento europeo, che è il tedesco Schulz, socialista, sì, si permetta di insultare questo o quel politico italiano? Ma è come se Napolitano domani andasse in Germania ed essere medagliette, tu sei un cretino e tu invece vai bene. Comunque, i titoli sono questi, il giornale Libero titola "Ci tocca un Montoni", ma anche, non so, il Corriere della Sera, "Ora Monti scenda in campo", Repubblica, "L'Europa vota Monti". Ecco, l'Europa vota Monti è fantastica, cioè l'Europa che vota è la sintesi perfetta del titolo di Repubblica. Sentiamo ieri Berlusconi come al solito ha sparigliato dicendo "sono stato io, sono io che voglio Monti candidato", sentitelo. "Con Monti, se mettessimo insieme tutti i moderati, si potrebbe arrivare a vincere le elezioni. Quindi saremmo sempre preoccupati, ma avremmo una prospettiva". Ma questa coalizione ci dovrebbe essere anche la Lega, perché lei ieri ha detto che ci dovrebbe essere la Lega in questa coalizione. Per essere tutti insieme i moderati, ci dovrebbe essere anche la Lega. A Monti non piace. Ma in politica si può tutto. Salvini, ha sentito? In politica si può tutto, che alla Lega Monti non piace. Voi e Berlusconi potete stare insieme? Allora, io innanzitutto non sono per niente moderato, perché quando incontro un disoccupato, un cassintegrato, un precario, sono tutt'altro che moderato. B, numeri alla mano, Monti ha fallito da tutti i punti di vista economicamente parlando. C, è chiaro che l'Europa invece lo rivorrebbe, perché ha messo in sicurezza le banche e ha tirato fuori miliardi di euro che sono finiti in Grecia, peraltro non all'Italia, quindi fossi nell'Europa vorrebbe una vita Monti. E invece con Berlusconi come sono i rapporti? C'è una possibilità di alleanza? È escluso che la Lega possa sostenere qualunque cosa che puzzi di Monti, e con Berlusconi, ripeto, si torna indietro, non si va avanti. Io cosa devo fare da segretario della Lega in Lombardia? Secondo lei faccio una campagna elettorale dove devo parlare? Dei treni pendolari che non funzionano, delle aziende agricole che chiudono con Berlusconi. Con Berlusconi di cosa parlo? Per due mesi di bunga bunga, di giustizia, eccetera, eccetera. Quindi... Ah, ecco, Forchielli, questa è una sentenza abbastanza, a parte Massalvini è così, cioè dell'ala della Lega, dell'ala, insomma, anche lo stesso Maroni ha detto, ribadito ieri, con Berlusconi non si fa niente. Insomma, ma sentiamo Forchielli, ha sentito la voce di Berlusconi, le ha suscitato qualche reazione? No, beh, ormai non suscita più niente. No, ma lei una settimana fa ci ha detto ormai non dovreste più parlarne, ma poi in una settimana... Esatto. Ma ha visto in una settimana che è successo? Mi ricandido? Sì, è successo, poi è tornato indietro, capito? Non è successo niente. Niente. È una roba che serve a voi per fare audience, però di fatto la spread audience, è tornata a posto. Ma come audience? Cioè, la politica italiana. Sì, ho capito, ma la politica è una lunga barzelletta in Italia. Cioè, questo è un paese che non si è guadagnato il diritto dell'autodeterminazione. Addirittura. Perché è un paese che... c'è un paese che gliel'ho già detto 30 volte. Un paese che per tre volte elegge Berlusconi. In 60 anni non sconfigge la mafia. Capito? Al debito più alto del mondo dopo il Giappone. Ma cosa vogliamo fare? Com'è lo slogan? Sai quanti ci chiamano e dicono "ha ragione Forchielli, siamo..." Siamo Siamo feccia, questo è un paese che non feccia, si è guadagnato l'autodeterminazione. Siamo feccia. Se non se la merita, capito? Sai che se si candida con "siamo feccia", con dei... magari c'è gente che la vota, "siamo feccia", con la faccia di... Sono in Italia due volte all'anno, capito? Parla dell'Italia! Uno incontro sempre Salvini, però voglio dire, questa è la mia posizione, che non ci siamo guadagnati il diritto di saperci governare, capito? E allora fanno bene a governarci loro dall'Europa? Meglio di quella manica di scellerati che abbiamo adesso. Allora, manica di scellerati. Sentiamo Mario Monti alla domanda: allora si candida o no? Qualche giornalista improvvido ha tentato di strappargli un commento su questo tema. Sulla domanda che lei mi ha rivolto non ho nessun commento da offrire. Non sarebbe comunque il momento e non sarebbe il luogo. Avete sentito, no? come si risponde in maniera secca a una domanda del genere. Salvini, devo andare a dare le informazioni sul traffico, ci sono novità dal reparto di ostetrice del Buzzi? No, vabbè, sono sul pianerottolo esterno per non disturbare, però non penso che ci siano a breve. Ci odieranno a morte, insomma, non solo all'ospedale, ma ci odierà a morte anche la sua compagna a questo punto. Cioè, dice, se sta per nascere il mio figlio, e figlio o figlia, tra l'altro? Bimba. Sta nascendo una bimba e questo fa l'intervista in diretta a Radio 24. Ma inizia malissimo questo rapporto genitoriale. È il traffico. 24 mattino. Cari tedeschi, ma impegnatevi di più a gestire gli italiani da padroni. Siamo obesi perché costretti in casa per salvarci da assassini, delinquenti, ladri, barbari che la sedicente Europa rifiuta e rinchiude tutti qui? Ma voi ci fornite un esemplare eccelso, la vostra autentica silfide, la vostra Merkel. Gli italiani smagriscono al solo guardarla. Ciao Ale, ci stanno imbrogliando, ci dicono votate voi, scegliete i candidati, poi ci sarà il porcello con le liste bloccate, parlamentini, parlamentari, parlamentosti, adesso vogliono farci credere che sia una cosa collettiva, non ci vuole il forcone, ci vuole la ghigliottina. Caro Milan, e se mai avessero ragione e quest'anno grazie a loro mi salvasti dal tragico pranzo di Natale con i parenti. Ma scusate, io non capisco perché mi prendete in giro. Ci ho detto che voglio fare il coordinatore dello stabilimento, vuol dire che faccio il coordinatore dello stabilimento. Che diamine, lo stabilimento. Carissimo Alessandro, mi spieghi come mai Monti dice che è colpa di Berlusconi, mentre Berlusconi dice che è colpa di Monti e del suo spread? Ma per me sono tutti una merda. Mi domando se è giusto che la più antica, la più potente, la più ricca multinazionale esistente da 2000 anni non debba pagare l'IMU come le persone comuni. Forse è sceso l'angioletto che l'ha fatta esentare? Sono d'accordo con la signora che dice di triplicarti lo stipendio, ma io te lo decuplicherei, non so se dici così, comunque ti darei 10 volte tanto. Oh, bravi, stiamo andando al rialzo, faccio un applauso in diretta a Salvini e Forchielli, volete unirvi anche voi al partito del triplicarmi lo stipendio? Siamo arrivati a 10 volte tanto, ovviamente a voi la solita percentuale, Salvini, se vuole contribuire qua, stiamo... Di più, tanto non sono soldi miei, quindi... Chi se ne frega, paga Confindustria. E quindi, Forchielli, lei va bene? Posso guadagnare 10 volte di più o rilanciamo? Perché è partito questa gara in segreteria, chi mi vuole triplicare, decuplicare lo stipendio? Va bene così? Sì, no, perché genera l'inflazione, fa saltare i bilanci. Eccolo lì subito, no, poi l'Italia, i bilanci, il debito. Ma no, bisogna tirare la cinghia. Allora, come commentare, lo faccio commentare a Salvini, ma anche a Forchielli. Umberto Bossi è tornato, Salvini, ma questa storia dei fucili, ha detto Umberto Bossi, noi vogliamo andare a Roma, cioè voglio essere presente alle elezioni a Roma, a meno che tiriamo fuori i fucili e facciamo qualcosa di più rumoroso e di più rumoroso. Ancora questa storia dei fucili, Salvini. Anche nelle vostre telefonate c'era il signore della ghigliottina. Sì, ma lui è un signore, è un cittadino che da libero magari si è arrabbiato, appena stato superato all'incrocio da qualcuno in maniera un po' strana, a Umberto Bossi. Questa è la reazione di chi da 20 anni prova il Parlamento italiano del siamo feccia a cambiare qualcosa e ha la netta sensazione che da Roma non si riesca a cambiare nulla e quindi punta tutto sul governo del territorio. Perché può essere vero che l'Italia sia uno stato bizzarro se non ridicolo, detto questo la Lombardia è una comunità di 10 milioni di persone che ha il terzo prodotto interno lordo d'Europa. Ho capito, ma i fucili, servono i fucili per quello? No, i fucili servono durante la stagione venatoria per chi è appassionato di caccia e non fa raccogliere. Ah, per sparare ai passerotti e ai tacchini sul tetto, forse. Però una spallata servirà. Io penso a Monti in censato come il salvatore della patria, invece ha fatto disastri da tutti i punti di vista, economicamente parlando. Ecco, una sonora spallata. Io penso ad esempio ai militanti, ai 5.000 volontari della Lega che faranno i gazebo nel fine settimana, domani e dopodomani, magari sotto la neve, appunto, a favore delle proposte della Lega e contro il governo Monti. Secondo me qualche forzatura e qualche spallata, sana spallata democratica. Ci vuole. Senza fucili, quelli a capo. Evidentemente, magari con le fionde. Con le fionde, addirittura, fionde, forconi, forchielli. Qui d'altronde il clima è questo. Milan, sì. Quando uno parla con uno straniero, la differenza tra North of Italy. Sì. In South of Italy è marcatissima. Cioè cosa dicono? No. Me lo dica. Lei nel corso di una discussione definisce che l'operazione è in North of Italy. Ok? Nord Italia. Lei dice Northern Italian, Southern Italian. È una cosa che ormai è chiarissima. C'è già una secessione ovunque nel mondo degli affari. C'è un'operazione e ti dicono è North of Italy o South of Italy. Ma dove mettono il confine? Dove mettono il confine in questo? In ma questo... il confine loro lo mettono fino a Firenze. Roma è un buco nero. Tanto bella è, ma io proprio roba. Cioè non c'è nulla. Cioè da Firenze si fa un saltone fino a Napoli più o meno. Cioè Roma è il buco nero. Io poi gli spiego che in mezzo c'è Viterbo, ci sono le Marche, l'Abruzzo. Mi stanno a sentire con gli occhi un po' così. Comunque su Roma tiriamo una croce sopra. Non c'è mai stata un'organizzazione competitiva che sia nata, cresciuta, vessuta a Roma, all'Italia Docet. Roma non ha mai generato un'organizzazione competitiva che non fosse sotto un ombrello di monopolio. Quindi questo per non parlare del Parlamento, per non parlare del Parlamento. Parlamento. No, non ne parliamo, perché neanche Matteo Salvini. No, perché se non mi interessa la politica, capito? Però sotto l'aspetto competitivo industriale non esiste un'organizzazione privata che abbia generato una leadership di qualunque tipo in campo internazionale che sia cresciuta a Roma. Insomma, queste sono musica per le orecchie anche di Matteo Salvini, quindi voglio dire. Salvini, hai sentito? Cioè, Forchielli dice che la secessione di fatto già c'è negli affari, quando sente dire North of Italy o South of Italy. Ma questo è oggettivamente così. Se Maroni diventa governatore della Lombardia, gli proponiamo l'assessorato al bilancio. L'assessorato al bilancio, benissimo. Matteo Salvini, grazie. La lasciamo a impegni ben più importanti dal reparto di ostetricia del Buzzi di Milano. In collegamento con noi il segretario della Lega, che sta per diventare nuovamente papà di una bimba. Tanti auguri ovviamente, Alberto Forchielli. Grazie anche per essere stato con noi. E ci ritroviamo dopo il GR delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, sono le 7:19 minuti, siamo pronti alla rassegna stampa. Vi ricordo gli ospiti di oggi un piatto ricchissimo nel nostro menù. Avremo ospite alle 8:15 Giulio Tremonti, l'ex ministro dell'economia. Poi avremo ospite alle 8:30 l'imprenditore Renzo Rosso del Diesel, anche per parlare dell'iniziativa che ha fatto, ha messo a disposizione 5 milioni di euro per l'Emilia, per i terremotati. E è il giorno in cui Radio 24 oggi dedicherà gran parte della programmazione, con stasera anche lo speciale sull'Emilia che riparte a 6 mesi dal terremoto. E avremo ospite alle 8:45, un ospite sui generis straordinario, Antonio Albanese, Cetto la qualunque. Insomma, avete capito gli ospiti di oggi?

Per quel che riguarda invece l'economia, ieri in Europa hanno deciso una cosa importante, cioè è nata la vigilanza unica europea. Anche qui tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore. Sulle banche, dopo anni di discussioni, è stata trovata un'intesa sul trasferimento della sorveglianza bancaria dagli Stati membri alla Banca Centrale Europea, un accordo che dovrà essere approvato nel Parlamento Europeo ora e che prevede che alla BCE vada la vigilanza sulle banche più grandi. Tra l'altro Moria Longo, a pagina 5 del Sole, racconta quali potrebbero essere i riflessi per l'Italia. In Italia la svolta riguarderà 15 istituti, secondo i primi calcoli, potenzialmente altri 4 che hanno attivi poco sotto la soglia dei 30 miliardi, quindi si potrebbe arrivare fino a 19 istituti bancari coinvolti da tutto questo. Scampoli dalla cronaca, è pronta la grazia per il corvo. Il maggiordomo ex del Papa Paolo Gabriele domani, racconta il Corriere con Maria Antonietta Calabro, pagina 29, dovrebbe arrivare la grazia del Papa, il perdono, il reo è pentito e si è ravveduto. Era stato condannato a 18 mesi di carcere per furto di documenti, pare che domani possa arrivare la grazia con l'obbligo però di vivere lontano dal Vaticano. Questa era l'ultima notizia? Sì, guardo Filippo, possiamo fermarci qui. Allora, giornale radio delle 8 e poi avremo Giulio Tremonti, Renzo Rosso della Diesel e Antonio Albanese, Cetto la qualunque. "24 Mattino", l'Italia si desta. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:16 e allora per commentare l'attualità abbiamo con noi l'onorevole Giulio Tremonti, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. L'ex ministro dell'economia che ha lanciato Lista Lavoro e Libertà. Senta Tremonti, i titoli più gettonati oggi dai giornali sono "L'Europa vota Monti" o "L'Europa sceglie Monti". Lei come giudica questa scelta del partito che lei conosce, tra l'altro il Partito Popolare Europeo, di invitare una persona che non è del partito ma che è auspicabile per quel partito possa guidare ancora l'Italia? Ma guardi, io il Partito Popolare Europeo un po' lo conosco, sono stato eletto presidente dei ministri del Partito Popolare Europeo, l'Ecofin. Detto questo, non è mai successo nella storia europea un atto di questo tipo, e cioè dire una azione di ingerenza nella sovranità, nella dignità nazionale di un paese fatto in questo modo. E poi non è solo il PPE, sono tutte le grandi banche del mondo, perfino il primo ministro dell'Albania ci invita a votare in un certo modo. Allora, esiste, come dire, un criterio per stare in Europa, e secondo me l'Europa è il nostro destino, il continente di mezzo tra l'Atlantico e il Pacifico, è fondamentale l'Europa, ma proprio per questo non può essere usata e stortata in questi termini. Questo lo trovo assolutamente inaccettabile come italiano, e spero che gli italiani, penso, lo comprendano, lo capiscano. Questo però, professore, si vedrà alle urne, ma lei contesta la possibilità dell'Europa di dare delle indicazioni, cioè dire noi vorremmo che guidasse l'Europa colui che fa più gli interessi dell'Europa. Senta un po', è già successo per qualche altro paese o è la prima volta che succede? È la prima volta. Allora io lo considero una volta sbagliata, perché non ci sono in Italia partiti o formazioni negative sull'Europa, ci sono diverse visioni, e tutte secondo me legittime. Gli italiani hanno il diritto di votare e hanno, come dire, non hanno il dovere di ricevere diktat esterni fatti in questo modo, che ripeto non è solo l'Europa, è tutto il mondo, le banche internazionali, il Fondo Monetario Internazionale. Allora, io credo che la dignità nazionale sia una cosa, e l'interesse e la sovranità nazionale siano una cosa superiore a tutto questo. Ma siccome tutti, appunto, come dice lei, chiedono questo, non è che forse lo fanno perché ritengono, come alcuni italiani, che la credibilità della classe politica precedente non possa essere riproposta? Ma guardi, intanto gli italiani voteranno la nuova classe dirigente, voteranno un nuovo Parlamento, e poi tutti chi sono, ripeto, non sono i popoli o non sono, come dire, altre entità. Sono i meccanismi di potere e di controllo finanziario, ma le dirò anche la ragione di questo particolare interesse. L'Italia venne usata come un bancomat per coprire i buchi fatti, i vuoti di bilancio fatti tra banche e stati della Germania, della Francia, dell'Olanda, dei paesi del nord. Vede, il problema è molto semplice. I paesi in crisi, certamente molto più in crisi di noi, la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, il Portogallo, hanno, come dire, essendo in crisi, hanno delle posizioni di debito che sono a rischio per chi è a credito. Tutto è collegato, è controparte. Sì. Quindi se il tuo debitore sta male, anche tu creditore rischi di stare male. Quel buco viene configurato come il meccanismo per tappare quel buco, per colmare quella voragine, quel carattere, viene configurato come salva stati. E allora uno dice c'è un meccanismo salva stati che serve per salvare i greci, gli spagnoli, quei popoli, quei paesi. In realtà è solo salva banche, ma neanche le banche greche o spagnole, le banche tedesche e francesi che gli hanno dato i soldi. Per essere chiari, l'esposizione a rischio, a questo tipo di rischio, delle banche italiane è minima, delle banche tedesche e francesi è massima. Quindi secondo lei sarebbe un errore tragico, secondo lei, chiedere gli aiuti all'Europa? In questo anche... Guardi che sta dicendo una cosa che non è collegata a quello che ho cercato di dire. Io dico che all'inizio il meccanismo di aiuti partì in modo un po' empirico e si disse, usiamo come parametro per dire quanti soldi caccia fuori ogni Stato per aiuto, usiamo la sua grandezza economica. Ma quando emerge che uno Stato come la Germania, come la Francia, ha un buco devastantemente più grande del nostro, sì, non vedo perché noi dovremmo pagare per il loro buco di bilancio. E la ragione per cui vogliono questa politica è questa. E tra l'altro hanno tutti un enorme interesse a condizionarci. Ma chi avrebbe, chi avrebbe questo interesse a tenere l'Italia sotto un giogo? Lei parla anche di guerra vera e propria, la guerra economica nel suo manifesto. Allora, di guerra economica, di guerra civile, parlò l'anno scorso Jacques Delors, che è uno dei padri dell'Europa. Sul Mulino, negli anni 90, una rivista, avevo scritto anch'io un saggio intitolato La guerra civile. La guerra non si fa più, per fortuna, come una volta, con la violenza, fa con la concorrenza. Quando la concorrenza è spinta oltre un certo livello, è evidente che hai una rottura degli equilibri. Allora, che interesse c'è? Molto semplice, l'Italia ha la seconda manifattura d'Europa, è ancora un enorme facimento di risparmio, c'è un enorme interesse a tenerci sotto condizione. Da parte di chi? Da parte della Germania? Della Germania. Più in generale, la concorrenza straniera ha un enorme interesse a condizionare la manifattura italiana, le nostre imprese, e quindi gli va bene se i loro concorrenti vanno in banca e non gli danno i soldi, oppure glieli danno a un tasso enormemente superiore a quello tedesco. Faccio notare che durante il vecchio governo Berlusconi il denaro in Germania costava il doppio che in Italia. La manifattura, chi ha interessi alla raccolta del risparmio, interessi bancari, ha un enorme interesse a venire in Italia a fare quello che vuole. L'agenda Monti è quella di una agenzia di pompe funebri. Voglio essere chiaro che il rigore sia fondamentale, è fondamentale, l'ho fatto anch'io. Io per tanti anni sono stato indicato da Monti come una persona... L'uomo del rigore. Però l'accusavano che mancasse la crescita, Esatto, infatti, allora, primo dicevo che la crescita non si fa per decreto legge e adesso lo dice Monti come sua giustificazione. Secondo, pensare che la crescita dipende dal governo è una visione infantile e devo dire tragicamente sbagliata, perché la crescita dipende da tanti fattori, dall'ordinamento giuridico, dal sistema sindacale, dal clima complessivo. Detto questo, non mi pare che Monti sia un fenomeno sulla crescita. Insomma, lei dice Monti Monti rimproverava la mancata crescita. Siamo a meno 3 di recessione. Ora, nessuno dei provvedimenti che ha fatto ha portato alla crescita, ma tutti alla recessione. Però lei sa, professore, che Monti anche dice, e questo che scontiamo è una sorta di onda lunga che arriva da una eredità che lui ha preso. Allora, cioè, non si può in un anno certo invertire il trend della crescita. Se fosse, come dire, corretto questo, allora noi per, io ricordo, fatto il ministro, per 3 anni, non dico che fossero i 3 anni, come dire, d'oro, c'era una crisi fortissima, però abbiamo avuto lo spread 113, adesso è 3 volte tanto dopo i soldi della BCE, 3 volte tanto, per 3 anni è stato 113, vuol dire che la politica fatta in Italia era dai mercati considerata una politica accettabile. Il deficit saliva meno che adesso, si andava al pareggio, adesso si va allo sfondamento oltre il 3%, il debito saliva in rapporto al PIL che non c'era, ma non come adesso. Adesso noi ci stiamo indebitando per pagare le banche del nord, diciamo. Sì. E quando gli italiani cominceranno a pagare la sanità, e già adesso c'è costato metà questo gioco come debito, metà del costo della sanità in Italia, quando comincerà a non funzionare la sanità o quando pagheranno l'IMU, dovranno e potranno capire. Tra poco, tra pochissimo. Ma per esempio oggi in Parlamento c'è un provvedimento sul Monte dei Paschi di Siena che come dire, estrae dal bilancio pubblico 3-4 miliardi, che è esattamente il valore dell'IMU prima casa. In un paese normale cosa si fa? Si toglie l'IMU sulla prima casa o si danno 4 miliardi al sistema bancario? Quindi lei, questa potrebbe essere la soluzione, togliere l'IMU alla prima casa e togliere la banca, in questo caso alle banche o alla banca. No, ma non ha, per esempio, perché dare i soldi a Montepaschi, a che titolo? Sono 4 miliardi, è un emendamento del governo Monti, bipartigiano, io non credo che la linea di rigore debba e possa essere abbandonata, ma credo che un conto è la dignità in interesse nazionale e dare una prospettiva. Per esempio, io penso che l'economia italiana sia il problema. Sì. Allora, primo, la Germania lavora su una enorme banca pubblica, KfW. Tutta l'economia tedesca si basa su questa struttura pubblica, è stata fatta andare avanti in 50 anni, viene dal piano Marshall, da tutti, destra e sinistra. Noi non ce l'abbiamo. Io ho fatto la cassa depositi e prestiti, sì. Andrebbe quintuplicata. Nel mio manifesto c'è scritto dobbiamo fare la KfW. La banca del Mezzogiorno è un'altra cosa. Bisogna fare la banca per l'economia. Il presidente Hollande in Francia 15 giorni fa ha detto la Francia deve avere una banca per l'economia. E lei vorrebbe nessuno questo. dei signori che si occupano di politica o che la commentano si occupa delle cose serie. Le faccio un altro esempio. Sì. Faccio una domanda, sennò non riesco a farle l'ultima domanda. Mi dica. Ecco, nel suo manifesto lei propone anche che la prossima classe dirigente politica guadagni non più di un precario. Però sa che molti italiani imputano non tanto ai soldi che potranno guadagnare i futuri politici, ma forse i soldi che hanno fatto finora i politici. Da qui deriva anche la forza montante anticasta cosiddetta. Ma è un'altra. Allora, io sono. Ho proposto, per la verità me lo segarono subito in luglio, ormai stava tutto degenerando, di livellare tutti i compensi dati dal pubblico a tutti i livelli, amministrativi, politici, comunali, regionali, a tutti i livelli, livellare sulla media europea. Questo mi sembra un modo, come dire, equilibrato. Glielo segarono punto, chi glielo segarono in maniera bipartita? Il Consiglio dei Ministri. Entrò la norma nel decreto legge, ma il Presidente del Consiglio disse che era una commissione di studio e tutto fu vanificato. Ovviamente c'era il massimalismo che diceva da subito, ma non c'era la media europea, bisognava calcolarla approssimativamente, non doveva essere una cosa fatta millimetrica, perché ci sono differenziali, ma era un simbolo di serietà. Se non si fanno queste cose, effettivamente è difficile poi andare a chiedere sacrifici e legittimarsi. Detto questo, torno a dire, sommando tutto quello che è stato indebitamente percepito dalla casta, evitando che prendano di più in futuro, il grande problema è l'IMU, la sanità, sì, che ci porteranno via a per pagare le banche. Noi ci vogliono usare come un banco. A proposito, gli italiani IMU, a proposito, sì, di IMU, onorevole Tremonti, che ho 30 secondi, lei avrà problemi a pagarlo come Brunetta, che ha dovuto chiedere soldi alla banca l'ultima rata? Guardi, no, credo di averla già pagata, insomma, io credo, le tasse si pagano, naturalmente si discutono, sì. Io trovo che l'IMU è realmente una tassa iniqua, soprattutto sulla prima casa, soprattutto, vede, le altre tasse tu puoi anche, come dire, modificare, per esempio l'IVA, beh, consumi di meno e paghi meno, sì, IVA, insomma hai dei margini, e l'IMU è spietata perché non puoi farci niente e se non hai soldi vai davvero in enorme difficoltà. È chiaro. Se ti indebiti per pagare le tasse, casistica a parte, beh, insomma, c'è un problema. L'IMU è una follia. Quando è venuto fuori che i comuni hanno preso 7 miliardi in più di IMU, vuol dire che chi manovra al governo non ha la minima idea di cosa succede nella realtà di questo paese. L'ultima domanda è su Berlusconi. Per mandarli, sì, a casa. Una ragione per mandare a casa. L'ultima domanda è su Berlusconi. Lei anche ha capito tecnici, che farà? Eh? Sì, anche i tecnici. Lei ha capito che farà Berlusconi? Guardi, io ho capito che in 4 giorni ha indicato nel governo tecnico i Monti il male assoluto e poi il bene assoluto. 4 giorni fa l'ha sfiduciato e adesso l'ha incaricato. Quindi è difficile un po' capire. Comunque non ma lo ciascuno non può insomma dire, poi ciascuno può dire le sue cose. Sì. Io dico la mia, cioè dire l'agenda Monti è il programma di un'agenzia di pompe funebri. Sì, questo in Europa ci si deve stare, ma ci si deve stare a testa alta e facendo battendo valere i pugni, i nostri, come le ha scritto nel manifesto. Facendo valere i nostri, come fanno tutti gli altri. Se lei pensa che l'Italia aveva le banche a rischio, secondo lei i tedeschi ci pagavano per il rischio delle banche italiane o ci mandavano a quel paese? No, ma è chiaro, io mi devo fermare qui, però intanto la ringrazio, ovviamente in bocca al lupo, buona giornata all'onorevole Giulio Tremonti per essere stato con noi, lista Lavoro e Libertà è la sua lista. Ci fermiamo, sarà con noi tra poco Renzo Rosso, il patron della Diesel. 24 mattino. Allora, oggi è una giornata particolare anche per Radio 24 che segue a 6 mesi dal terremoto dell'Emilia. Com'è la situazione? Giornata e programmazione che culminerà questa sera in un grande speciale dalle 21 alle 23 in diretta dai luoghi colpiti dal terremoto. Noi per questo abbiamo chiamato e lo ringraziamo per essere con noi Renzo Rosso, il patron della Diesel, imprenditore veneto. Buongiorno Rosso e benvenuto. Buongiorno a voi. Renzo Rosso ha deciso di mettere a disposizione per finanziare un progetto di microcredito di Etimos Foundation 5 milioni di euro del patrimonio personale per fare che cosa? Finanziare iniziative di che tipo per le regioni colpite dal terremoto, Rosso? Tutte le iniziative che le banche purtroppo non danno peso. Le banche oggi fanno solamente i grandi progetti e il piccolo artigiano, il nuovo startup, il fiorista, il bottegaio, le piccole attività non vengono proprio prese in considerazione, per cui abbiamo pensato di dare di fare questa formula che esiste già un po' in tutti i paesi del mondo, il microcredito, sì, di dare sostanzialmente sono dei finanziamenti che non hanno bisogno di garanzia a tutte quelle piccole attività, start-up che possono fiorire, che possono ridare la, certo, quindi microimprese, cooperative, quelle realtà che si rivolgono alle banche e che, come dice lei, trovano, perché trovano gli sportelli chiusi? Cioè non ci dovrebbe pensare lo Stato, non ci dovrebbe pensare le banche a fare un'iniziativa del genere? Ma il nostro sistema è un sistema purtroppo che non funziona molto bene da questo lato, è un sistema arcaico, un sistema vecchio, un sistema troppo burocratico, troppo corrotto, per cui molto molto difficile da poi da andare nel vero cuore, il cuore che palpita, il cuore che è quello che fa la vita quella fresca, quella di tutti i giorni, e lì non ci siamo. Come funziona? 5 milioni di euro senza, cioè voi li date, ci saranno delle richieste di chi vuole 10.000, 30.000, 50.000, insomma, per euro per rilanciare le proprie attività o lanciare le proprie attività. Voi come gestite questa situazione? Noi le abbiamo messo a disposizione di Etimos, Etimos garantisce che vengano dati a tutte queste attività, è chiaro che vengono valutate, non è che vengono dati a tutti, quindi basta avere un progetto valido, un progetto che rappresenta una sicura attività e quindi viene erogato senza tanti problemi. Come vede da imprenditore? So che lei ha raccontato che poteva succedere anche prima, ma la burocrazia, uno dei grandi mostri dell'Italia, vi ha bloccato in questo, no? In che senso? Ma no, perché comunque bisogna passare via banca, i documenti vengono fatti nelle banche. Alla fine sempre lì bisogna andare. E che per esempio questi fondi sono, io li ho messi a disposizione da luglio, e i primi sono stati erogati adesso, per cui è veramente assurdo com'è burocratica, com'è lenta la nostra macchina. Da imprenditore, lei come la vede l'Italia in questo momento? Sai che è un momento molto particolare da un anno a questa parte soprattutto. Ma un'Italia triste, è un'Italia dove Monti sicuramente sta facendo molto bene, ma si trova però a dover coprire errori di 30 anni di politica sbagliata. Per cui stiamo a vedere un po' cosa succederà alle elezioni. Oggi abbiamo sentito che Berlusconi ridà fiducia a Monti, penso sia veramente l'unica strada da percorrere. Però Monti deve fare qualcosa che non ha fatto prima, deve tagliare via tutti quegli sprechi e deve cercare di togliere la corruzione. Secondo lei però Monti può essere, visto che c'è stato anche questo, lei viaggia anche per il mondo, insomma, sapete, il patron della Diesel, insomma, viaggia per tutto il mondo, sente in questo anno che c'è stata una maggiore credibilità, si usa sempre questa parola per il nostro paese, una maggiore fiducia nei confronti del paese? Assolutamente sì, io viaggio, era da anni che non si sentiva questa credibilità, perché prima siamo sempre stati abbastanza derisi, cioè abbastanza poi anche non simpatico da parte nostra, imprenditori che giriamo il mondo, fin da quel momento in cui arrivi nelle dogane, che la gente ti sorride, ti fa le battute e la cicciolina e tutte queste storie simpatiche, folcloristiche, che purtroppo diamo da vedere. Oggi Monti sicuramente è una persona solida, una persona che ha un fascino, una persona che ha una leadership, una persona che sa dialogare con il mondo intero e quindi può mettere a disposizione questa sua esperienza, e le cose che sta facendo sono cose, anche se pesa l'Italia, le famiglie pesa, quindi c'è una contestazione contro, perché si vede questa sì, tristezza data dalla povertà delle famiglie che si stanno sempre di più indebolendo, però è un passaggio per coprire ciò che non è stato fatto prima. Senta, ma io ho letto anche un'agenzia che lei si è impegnato e si impegnerà per il ponte di Rialto a Venezia. Questa è un'agenzia proprio di ieri, cioè metterà a disposizione una sponsorizzazione di 5 milioni di euro per restaurare il ponte di Rialto. Anche qui beni culturali importanti, e perché deve provvedere un imprenditore privato? Ma è stato 5 il mio numero magico, per cui anche un'altra volta 5, sì. Ma penso che un'impresa che fa bene, un'impresa che lavora, un'impresa che produce reddito, abbia anche, secondo me, l'obbligo di dover tornare un po' per quello che ha ricevuto. Per cui penso di rappresentare un'impresa moderna, e vorrei che fosse imitata magari anche da tanti altri. Quindi produrre reddito sì, lavorare sì, e però in qualche modo dare una mano socialmente parlando, perché oggi i governi non lo possono più fare. Restituire anche qualcosa. Beh, intanto io la ringrazio, sicuramente restituirà nel senso dal guadagno fatto questi 5 milioni di euro che, ripeto, lei ha messo a disposizione come progetti di per finanziare il microcredito nelle regioni colpite dal terremoto, un'iniziativa sicuramente positiva, e di questo la ringrazio e la saluto, Renzo Rosso, per essere stato con noi, okay. patron della Diesel, e ricordo ancora lo speciale stasera dalle 21, anche Focus Economia sarà in diretta dai luoghi colpiti dal terremoto, oggi alle 17 con Sebastiano Barisoni, e poi dalle 21 Federico Taddia, uno speciale tutta la serata sull'Emilia che riparte, ma un po' tutta la programmazione della nostra giornata di Radio 24 ha un focus su questo. Noi dopo il traffico avremo un ospite per concludere questa puntata, insomma, Cetto la qualunque, ebbene sì, Antonio Albanese, tra poco con noi. E allora le 8:46 minuti, l'ultima parte di 24 mattino, ebbene sì, abbiamo un ospite davvero speciale, particolare per noi. Vi ricordate di quest'uomo? Ancora due paroline, semplici semplici. Urbi e Torbi, un tuo colo. Ora è tornato, ma non è più solo. sicuri, tirate fuori Superman o gli ultimi metri ve li fate a rana, va bene? Eccoci, è con noi e buongiorno Antonio Albanese, forse l'avete capito, buongiorno Antonio, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno anche a voi, allora, giornata serena. Ecco, da ieri nei cinema in tutta Italia, protagonista col suo Tutto Tutto Niente Niente, che è il sequel di un film che ha avuto lo straordinario successo, Qualunque Mente. Sì. Solo che qui, Antonio, i politici ora si moltiplicano, i politici impresentabili, da uno, eccetto la qualunque, siete diventati in tre. Sì, realisticamente sono circa 3.000, però noi mi sono limitato a farne solo tre, insomma, perché io ho anche i miei limiti. Sono tre che caratterizzano un po', come dire, ritmi e atmosfere di questo nostro meraviglioso paese. Ma chi sono questi tre personaggi? Raccontaci. Sono dei personaggi ridicoli, sono dei personaggi che io cerco da qualche annetta a questa parte di rappresentare per farci capire, far capire che un certo tipo di politica, se vogliamo, e non solo comunque, un certo tipo di ambiente che gestisce comunità e gestisce un po' tutti noi, sono semplicemente da, almeno nel mio stile, nel mio modo, da eliminare, da accantonare, e io li rendo ridicoli per far capire questo, perché sono poi fondamentalmente ignoranti e stupidi. Ignoranti e stupidi, uno lo conosciamo bene, eccetto la qualunque che si ripropone, l'altro è Frengo, che peraltro è una vecchia conoscenza, insomma, per gli ammiratori di Antonio Albanese, e in questo film è colui che la madre vuole rendere beato in vita, e poi c'è il, come dire, razzista, scafista e razzista spregevole, no? Rodolfo Favaretto. Assolutamente sì. Sono tre spaccati del grottesco, mica male. Beh sì, sono tre spaccati e tre temi a me molto cari, che sono la religione. Io sono nato, come dire, cresciuto in un oratorio e ci tengo, insomma, e sono nato e cresciuto in questo paese, lo amo profondamente. Il terzo è Olfo Favaretto, che non è altro che una deriva xenofoba e razzista che noi fino ad ora stiamo un po' troppo accantonando, ma che si rivelerà un argomento che voi comincerete, secondo me, a trattenere in maniera molto seria, perché a cavallo della crisi, come dire, 1.000 e 10.000 microcellule impazzite si stanno un po' animando. Allora io ho cercato nel mio piccolo di, come dire, di ironizzare, di rendere ridicolo questo germe che sta un po' pian piano furoreggiando. E poi c'è un certo che rappresenta, purtroppo ormai da un po' di anni a questa parte, un certo tipo di politica mafiosa e stupida. Questo è un film comico, fa molto ridere. Il problema però può essere questo: si può ridere, ed è giusto ridere, di questi vizi italiani, di questa rappresentazione davvero da macchietta grottesche della politica italiana. Sì, secondo me sì, è un mio modo, così, il mio modo grottesco è un po' psicadelico di rappresentare questo che io chiamo negazioni, queste che io chiamo, come dire, follie. Infatti noi all'interno del film c'è questo sottosegretario, che più che un sottosegretario siamo un'iguana, che dice queste tre cellule impazzite. Io rimango ancora quotidianamente quasi scioccato nel pensare che dei personaggi così biechi, così ignoranti, perché ignoranti sono, così stupidi, gestiscono ancora delle piccole e delle grosse comunità. Insisto ancora su questo, e bisogna ridere di questo e non animare o rianimare, come capita in tanti salotti politici, dove magari un quarto d'ora prima uno ha commesso cose spaventose e viene in un certo modo santificato all'interno di questo salottino o di quei 10.000 salottini che trattano di politica, che veramente hanno spaccato le palle, scusatemi, non se ne può più. No, allora ma bisogna cercare, come dire, di denunciare questa cosa, e ci sono mille modi. Voi avrete stipendi da favola, assistenti e portaborse, trasferte, dépendance di pregio, ferie pagate, rimborsi e vitalizi, sconti e entrate di favore, ma in cambio dovrete essere ligi al vostro dovere. È chiaro questo? Il sottosegretario è incarnato da Fabrizio Bentivoglio, che a un certo punto promette a questi tre politici, che diventano politici, vitalizi, poteri. Poteri, gioia, felicità, potete entrare ovunque voi, che è quello che si sono aspettati sempre un po' tutti questi politici. Il percorso di questi tre è dalla galera al Parlamento. Mi sembra una prassi abbastanza reale. A volte è più il contrario. A volte, ma è anche a volte così. Diciamo che noi non ci siamo inventati niente, ci siamo appoggiati a una struttura, come dire, esistente, e su quello, dai, abbiamo cercato veramente di provare anche con la comicità a seguire una strada, uno stile, un modo diverso, perché dobbiamo trovarlo, siamo in tanti, lo dobbiamo fare, un modo diverso per abbattere tutto questo spavento. È vero che ho sentito in una tua intervista, c'è un politico vero, reale, che ha detto... tu sei bravo a prenderci per il culo, il più bravo a prenderci per il culo. Adesso... Devo dire che mi ha fatto anche piacere. Ma adesso noi vogliamo sapere chi è, perché altrimenti... No, non te lo dirò mai. Non te lo direi mai, perché una mia caratteristica è che mai non citare nessuno, perché non è mai uno, due o tre, non sono quelli i problemi, sono i momenti e un po' tutto quello che circonda quei personaggi, sono strane acclamazioni. Però mi è stato detto questo, me lo sono ritrovato. Ha semplicemente detto: guarda, mi piace il tuo lavoro, insomma, io non me lo perdo, vedo, ti seguo, così, perché sei quello che riesce a prenderci per il culo perfettamente, veramente, e sei quello che veramente riesce a entrare nei nostri mille difetti. Viene da chiedersi se il film si ispira alla realtà o se è il film che ispira poi la realtà. Beh, bravo, è una bella domanda e ti ringrazio. No, secondo me è tutte e due le cose, e di questo sono contento. Come è il film tutte e due le cose, cioè comicità e anche un minimo di riflessione, un minimo di, come dire, di contestazione anche all'interno, perché è un po' tutto questo. Mi è stato detto in conferenza: ma il film è psichedelico, è grottesco, è drammatico, è sì, vabbè, soprattutto comico e tutte queste cose. Io ho detto: ecco, è come questo nostro paese, che è grottesco, che è drammatico, che è comico, è bellissimo guardarsi attorno e rappresentare, ci sono mille modi, rappresentare tutto questo. Però è bello dire che è una dichiarazione d'amore per il proprio paese. Ma si fa questo, guarda, io quando rappresentavo Cetto in teatro, prima chiedevo sempre scusa al pubblico, prima di rappresentarlo, perché mi vergognavo talmente tanto di entrare nel corpo di questo personaggio spaventoso, che chiedevo sempre scusa, ma sorte anche di piccolo sacrificio. È una storia d'amore verso questo paese, perché la mia intenzione è sempre quella di denunciare, almeno lo è stato anche in questo caso, poi magari il prossimo sarà completamente diverso, ma è di denunciare tutto quello e di rendere ridicolo tutto quello che vediamo quotidianamente e nel film, perché c'è da parte mia un grande amore nel paese che io considero il più bello del mondo, ma non perché si dice, perché è facile dirlo, perché è veramente così. Beh, anche noi giornalisti non facciamo una bella figura, c'è no. Questa scena in cui Cetto da Qualunque detta al giornalista quello che lui deve scrivere, poi deve far pubblicare sulla prima pagina, che ovviamente, esatto, è qualcosa di irriferibile, non vero. Eccetera. Voi dovete fare una riflessione che deve durare almeno un mese. Almeno. Si parla sempre di cambio di casta, di politica, ma adesso onestamente, visto che proprio considero il vostro lavoro molto bello e molto importante e difficile, voi dovete anche voi fare una grossa riflessione, perché voi giornalisti, adesso io non voglio generalizzare, ma una parte, come dire, siete a un quarto d'ora dal mio esaurimento nervoso, perché molti di voi sono incapaci di intendere di volere, ecco, questo è vero, questo è vero. Benissimo, c'è un politico vero che non sfigurerebbe in questo film? Beh, ce ne sono un centinaio, 200, forse 300, 400, ce ne sono 500, forse 600, non lo so. Vogliamo svelarlo allora, magari attraverso anche la voce di Cetto, il motivo di tutto, tutto, niente, niente, quando dice ho tutti dentro, tutti fuori, no? I politici... Ma lui dice una cosa vera, dice: questi politici o tutti dentro o tutti fuori, mezzi dentro e mezzi fuori non è pratico. Grazie mille, Antonio. Grazie a te, grazie a voi, grazie a Radio 24. Grazie. No, grazie. Ma io avevo proprio bisogno di un troione. Le tre schegge impazzite vanno fermate in fretta, li avevamo sottovalutati. Lei è un razzista. Come si fa a integrare bianco e nero? Lei li vorrebbe dei figli grigi? Sto finendo e di allora, e allora, questi suoni del film, davvero grazie a Antonio Albanese, del film Tutto Tutto, Niente Niente, che da ieri è nelle sale in tutta Italia, insomma ci ha regalato anche questo spaccato della politica italiana, Antonio Albanese. Allora io mi fermo qui, ringrazio Miriam Lucchetti in redazione, Elisabetta Fusconi anche in redazione, Alessandro Longoni e Filippo Aureggi oggi in regia. Detto che lunedì, segnate, lunedì sarò nuovamente in ferie, non ci sarò, no, ma c'è Gianfranco Fabi che fa 24 mattino, l'appuntamento sempre alle 6.30, seguiteci su Twitter, Alino Milan, quello sono io, 24 mattino è invece l'account della trasmissione, e ci ritroviamo allora lunedì con la trasmissione con Gianfranco Fabi alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492.